cosa più veloce è che utilizzino le maggiori entrate dalle banche, assicurazioni e aziende petrolifere per sostenere i costi crescenti che le persone hanno in termini di aumento dei prezzi dei generi alimentari e del riscaldamento dell'energia elettrica. Se prendono quei soldi e li danno alla parte più povera del paese, che adesso sul serio vive una situazione drammatica soprattutto per acquistare cose necessarie, questa è una buona, sarebbe una buona cosa da apprezzare, un vero atto alla Robin Hood.